Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 16 febbraio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Noi siamo sempre su Liberi Dentro e questa è la nostra trasmissione che va in onda su Radio Città Fujiko e su Teletricolore. Sono in compagnia di Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutte. E di Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Bene, apriamo sempre con le notizie di cronaca bianca. Questa volta vi leggo da Epale e C Europa un articolo di Ada Maurizio, istruzione in carcere, siglato il nuovo protocollo nazionale. Perché l'emergenza sanitaria, lo sappiamo, ha imposto anche in carcere la didattica a distanza. E questo noi lo sappiamo ad Ozza perché l'abbiamo praticata con Liberi Dentro anche per un po' all'inizio delle trasmissioni. E il Ministero dell'Istruzione si è occupata di valutare se questa didattica a distanza in qualche modo ha funzionato e il bilancio è che il 95% dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, quindi i cosiddetti CPA, ha garantito il proseguimento dei corsi di alfabetizzazione. Questa è una buonissima notizia anche nelle carceri. Quindi è stato siglato il nuovo protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Ministro della Giustizia, che si chiama Programma Speciale per l'Istruzione e la Formazione negli Istituti Penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia, e questo protocollo rappresenta la cornice normativa essenziale per il perseguimento del diritto, lo ricordiamo, costituzionale, articolo 27 della nostra Costituzione, all'istruzione e anche quale leva di pieno reinserimento sociale per le persone detenute. Questo protocollo è stato rinnovato il 19 ottobre del 2020 e tra le novità, e questa è una novità molto importante, è quella del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quindi il lifelong learning riconosciuto, questa è una cosa a cui tengo moltissimo anch'io, e tra le finalità anche la valorizzazione delle tecnologie, perché sappiamo che adesso con il Covid si è inserita questa importante anche per le carceri, inserimento delle tecnologie per la didattica a distanza. Ma adesso Ignazio do la parola a te perché ci porti sempre in giro per il mondo e oggi siamo in Marocco, dove c'è un dibattito importante, no? Un dibattito, sì. Un articolo di Journal de Tanger. Allora, la notizia è questa. Il 13 gennaio del 2021, quindi pochi giorni fa, la Camera Penale della Corte d'Appello di Tangeri ha convalidato la pena di morte per l'autore di un delitto orribile che aveva scosso veramente l'opinione pubblica marocchina, un bambino di 11 anni, il suo nome Adnan, lo diciamo anche, che era stato rapito, violentato, ucciso e sepolto. Questo delitto veramente terribile ha commosso l'opinione pubblica e in automatico ha fatto chiedere la pena di morte per l'autore di questo crimine. Pena di morte che c'è stata perché in Marocco, ricordiamolo, esiste la pena di morte, sono state eseguite dal 1953 fino ad oggi qualcosa come 198 condanne a morte. La pena di morte riguarda l'omicidio, ma anche la rapina a mano armata e poi altri reati di terrorismo. Ovviamente la società marocchina nel suo complesso ha detto sì, questa persona doveva essere uccisa, una cosa così non si fa, però si sono mossi invece delle organizzazioni umanitarie del Marocco dicendo che a nessuna persona può essere tolta la vita, quindi è un dibattito importante anche tra le persone recluse, si parlano di queste cose, c'è un codice di onore del carcere, io dico, vi invito a scriverci quello che pensate. Io personalmente credo che non si possa togliere la vita a nessuno, perché nessuno è mai se stesso. E ho visto tante persone recluse, anche reati gravi, e dopo 20 anni, 25 anni, non sono più la persona che ha fatto quella cosa lì. Quindi comunque è un argomento molto importante, credo che sia importante riflettere anche tra noi. Grazie Ignazio, e ti chiedo allora di lanciare intanto il nostro pezzo di musica sempre internazionale. Sì, andiamo con questa settimana tutti autori libanesi, la volta di Nancy Ajram, che è una cantante e compositrice libanese molto famosa, che fa Enta e come stai? E rieccoci sulle note di Nancy Ajram e Come stai? E il brano traduco dal libanese, il titolo della canzone. Siamo sempre con te, Ignazio, per parlare di Galateo arabo, però internazionale, perché sono valori che possiamo veramente condividere tutti quanti. E stiamo parlando della pazienza. Il secondo consiglio che viene dato da questa sapienza, come hai detto giustamente, che è internazionale, è evitare gli annoiati cronici. Cioè? In arabo dice tajannub al julus, ma al-ashkhas al-mumallin, cioè evitare di stare troppo seduti, il julus, con le persone che sono continuamente annoiati. O man yaj'aluna nadrat al-fard ila al-hayati saudania. Saudania vuol dire nera. Cioè le persone che vedono sempre le cose in nero. Qua nessuno di noi è un bambino. Sappiamo che i problemi ci sono. Le persone che sono in carcere hanno il nero davanti. Non, è inutile scappare da queste cose. Tuttavia, immergersi sempre nel nero a un certo punto ti sporca, cioè ti impregni di nero. Quindi il consiglio è questo, evitarle. E poi aggiungi un'altra cosa, oppure al-ahad bi-aidihim wa musa'adahi li takhallus min nazratihi al-mutashaim. Oppure prenderle per mano, questi annoiatoni, e cercare di tirarli fuori dal loro clima di noia. E quando si accende una luce in un annoiato è una cosa bellissima perché si illumina tutta la stanza. Non so se Micaela è d'accordo. Secondo me sì, secondo me sì. No, io si può dire che faccio teatro solo per quello, cioè solo per l'energia che dà stare insieme agli altri in un certo modo che è costruttivo, diciamo, che non è appunto può essere ripiegato, riflessivo, ma sempre comunque con una buona energia. E lo si vede dai tuoi laboratori, tra l'altro lo ricordiamo, voi andate in onda la domenica, quindi non perdete il laboratorio che è in programma la domenica. È vero. Vabbè, allora Micaele, ti do la parola subito, siccome abbiamo parlato di queste armi che ci dice. Ci ricorda Ignazio per rimanere vivi in qualche modo, allora come aiuta il teatro a combattere la noia? È interessante perché il teatro, se lo si chiede a uno per strada, ti dice, vabbè, il teatro è quel luogo dove vanno persone normalmente vecchie, però anche ricche, però anche molto colte, e dove fondamentalmente ci si annoia, soprattutto se lo chiede a un adolescente. Ecco, la cosa bella è che i teatri sono mille, come mille sono le persone che li praticano, quindi forse c'è anche un teatro ancora un po' così elitario, chiuso nella sua fortezza, ma soprattutto c'è un mondo di piccole azioni teatrali, e il teatro è uno strumento formidabile per stare insieme, per capirsi senza dover parlare, quindi va oltre le lingue, per capirsi senza essere necessariamente adulti, quindi va oltre la differenza di età. E da questo punto di vista, per esempio, il lavoro in contesti non teatrali, uno di questi è il carcere, un altro può essere, che ne so, una casa di accoglienza per persone con origine migrante, richiedenti asilo, rifugiati, un altro luogo può essere l'ospedale. Noi tocchiamo tutti questi contesti, anche la Tunisia che ieri si nominava, abbiamo anche lavorato in luoghi lontani, contesti apparentemente molto lontani, e sempre questa fratellanza o sorellanza attraverso il fare si genera, perché c'è un luogo dove si è pari. Credo che quella sia la cosa più importante, cioè si genera una vera un'uguaglianza nel fare. Stiamo tutti in quella barca, in quell'oretta, due ore, non lo so, di 5 ore di lavoro, e insieme si costruisce, e se uno non suona, non suona tutta l'orchestra. Ecco, questo è importante. Che bella questa cosa che hai detto, quanto è bello fare le cose in sincronia, insieme, nello stesso momento e nello stesso spazio. Anche se voi, come tante altre associazioni, state lavorando in distanza, anche a motivo del Covid. Stiamo lavorando molto poco, e quello che facciamo lo facciamo per il momento in distanza, sperando di, solo con i più piccoli sono un po' più fortunati, certe scuole illuminate consentono che andiamo a lavorare con i bambini. Speriamo presto tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno, anche noi, mica solo quelli da cui andiamo, anche noi ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Adesso lancio un brano a metà del nostro programma e lancerei, per distenderci un pochino, Luciano Ligabue, Piccola stella senza cielo. Eccoci su Liberi Dentro, bentornati, e do il benvenuto alla nostra ospite ormai settimanale, Rosanna Sirignano, che ti occupi di tantissime cose tra transcultura, la gestione del tempo, le lingue straniere e anche il dialogo interreligioso, e sei con noi per parlarci oggi sempre di spiritualità islamica, concentrandoci su quelli che sono i primi due pilastri della fede religiosa islamica. Buongiorno intanto, Rosanna, ciao. Buongiorno, grazie mille. Quindi passo subito la parola a te e ti chiedo, ci illustri questi primi due pilastri, la testimonianza di fede, la shahada e la preghiera. Sì, grazie mille. I cinque pilastri dell'Islam, come anche accennato la scorsa volta, hanno un preciso ordine che rappresenta in qualche modo anche la gradualità in cui il credente o la credente completano il loro percorso di fede. E quindi al primo posto, poiché è anche condizione basilare dell'essere musulmano o musulmano, c'è la shahada, che non è una semplice adesione del cuore, quindi non è la semplice fede, ma è proprio l'attestazione della fede in un unico Dio, cioè la ilaha illallah, non c'è Dio all'infuori di Dio, si può tradurre, e la seconda parte recita wa Muhammadun Rasulullah, cioè Muhammad è il suo profeta, e quindi il credere anche che Dio abbia rivelato il Sacro Corano al profeta come appunto mezzo di comunicazione con gli esseri umani. Questa shahada si pronuncia davanti a due testimoni per le persone adulte che desiderano intraprendere un cammino di fede islamica. Per quanto riguarda invece i neonati che nascono in famiglie musulmane, questa gli viene suggerita, ecco, sussurrata all'orecchio appena nascono. Ovviamente poi nel corso della vita si può sempre ritornare a riaffermare, e anzi, e mi collego al secondo pilastro, che è appunto la preghiera, la shahada viene pronunciata ogni giorno per 5 volte al giorno durante la preghiera rituale. La preghiera, che noi, ecco, in italiano noi traduciamo la parola salat con preghiera, non è da confondersi con il dua, che è la preghiera spontanea, è l'invocazione spontanea che chiunque in qualsiasi momento può fare a Dio, o un atto di lode, ecco, a Dio, ma spontaneo. La preghiera invece salat, quella che quindi è il secondo pilastro dell'Islam, è la preghiera rituale che si compie in determinati momenti della giornata per 5 volte, e che comporta una serie di movimenti e di formule, tra cui i pezzi del Corano recitati a memoria. Il fatto di pronunciare la shahada è proprio un modo per rinnovare giorno per giorno e più volte al giorno la propria fede. Mi veniva in mente che, parlando del primo pilastro, cioè la testimonianza di fede, c'è una sorta di legame anche con la religione cristiana, quando nel primo comandamento leggiamo non avrai altri dei di fronte a me, quindi c'è questo parallelismo, no? Tra la religione cristiana e quella islamica. Assolutamente non è solo un parallelismo, è proprio la fede che ci unisce, perché la religione islamica e la religione cristiana, così come quella ebraica, hanno in comune questo modo particolare di esprimere la tensione dell'essere umano verso l'uno, con delle differenze dottrinali assolutamente, ma la base è proprio questo, il tendere verso un Dio che è assoluto, che è unico, ovviamente non intendendo in questo senso uno come un'entità, perché noi sappiamo che Dio è qualcosa di cui non possiamo parlare veramente, noi ci aiutiamo con il linguaggio, ma Dio, ecco, non si può descrivere precisamente, ecco, quindi è in qualche modo il mistero dell'uno. Bene, lanciamo un brano musicale, vai! Lancio Enya con Holy Time. We got it. rieccoci sempre con te, Rosanna, siamo sempre su Liberi Dentro e riflettendo un po' con te sul appunto i primi due pilastri della fede islamica, la testimonianza e la preghiera, ecco, riflettendo sul termine testimonianza, nell'etimologia italiana di questo termine la parola testimonianza rimanda a qualcosa che si afferma, si attesta perché si conosce per davvero. Quindi la cosa che ti volevo chiedere è quanto è importante conoscere, in questo caso a livello di fede, stiamo parlando di spiritualità, ciò che, di cui si attesta l'esistenza, la verità. È assolutamente fondamentale, anzi proprio la parola shahada ricalca in questo caso esattamente la parola italiana. La conoscenza è fondamentale, l'Islam è pieno ecco di racconti, tradizioni che invitano proprio alla conoscenza, alla ricerca di conoscenza, e questa può avvenire anche proprio tramite la preghiera. La preghiera infatti non è altro che l'unione con il divino, infatti la parola salat vuol dire appunto un'azione che unisce, e quindi che unisce l'essere umano con la trascendenza. Forse questo termine è più simile alla parola italiana religione, che come sappiamo viene da un verbo che vuol dire appunto unire. Nel momento della preghiera in qualche modo si ha la possibilità di guardarsi dentro in connessione con il divino e quindi di fare esperienza della trascendenza, perché ecco, la conoscenza che noi forse siamo abituati a pensare come un fruire da maestri, fruire da libri, ma la conoscenza è anche e forse soprattutto esperienza. E quindi ecco come poi la preghiera diventa un pezzo dell'esperienza e dell'ampliamento della conoscenza dei credenti. Grazie Rosanna, con te continuiamo la prossima volta sempre in questo viaggio allora attraverso i pilastri della spiritualità islamica. E ora, siccome abbiamo parlato di preghiera, abbiamo parlato di testimonianza di fede, abbiamo parlato di tutte queste cose che sono anche diciamo poetiche del nostro animo e richiamano anche a tante altre arti e letterature diverse, io lancerei un brano di Leonard Cohen, Alleluia. Alla prossima. I've been here before. I know this room. I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love. Love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. As for me, all I ever seem to learn from love is how to shoot at someone who outdrew you. Yeah, but it's not a complaint that you hear tonight. It's not the laughter of someone who claims to have seen the light. No, it's cold and it's ever and only hallelujah. Dopo aver ascoltato la nostra Rosanna Sirignano sulle note di Leonard Cohen, Alleluia, questo bellissimo brano, vi saluto, vi do appuntamento a oggi pomeriggio al canale 636 di Teletricolore alle 17 con il laboratorio a cura del Poggeschi per il carcere di giornalismo. E i nostri riferimenti sono sempre liberidentro.duradio@gmail.com se volete scriverci, oppure indirizzate le vostre lettere a Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Ci rivediamo domani, sempre qui, su Liberi Dentro. Ciao!